è per lo psicologo di base, subito, perché è una situazione drammatica, emergenziale, c'è bisogno di costruire, chiedere risorse al comune, alla regione e cambiare sostanzialmente lo status quo che vede la salute mentale come non un diritto, una dignità che invece va garantita assolutamente. Voi dal vostro laboratorio avete osservato qualche conseguenza dell'impatto psicologico che questa situazione sta avendo? Assolutamente, noi abbiamo aperto uno sportello psicologico ormai da quasi un anno e abbiamo incontrato tantissime giovani, adulti, persone che chiedono aiuto e non sanno come fare perché sono precari e non hanno soldi, ma appunto soffrono di problemi mentali soprattutto, e decine e decine di persone sono venute da noi, quindi questo è un po' il segnale che le istituzioni non rispondono e quindi dobbiamo assolutamente agire tutti insieme nella piazza di oggi per chiedere in maniera forte questa cosa. Noi siamo appunto tra medici, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, cerchiamo insomma di garantire l'accesso alle salute in maniera gratuita ed è, oltre a un'attività, un servizio, anche una rivendicazione politica ovviamente. La questione economica è uno scoglio per l'accesso? Certo, perché attualmente sono per lo più privati i colloqui psicologici e il servizio invece, come dire, come il medico di base, come le grandi lotte degli anni 70 hanno insegnato, dobbiamo riuscire a garantire questo tipo di servizio anche rispetto alla psicologia. Può avere un effetto preventivo, insomma, prima di arrivare a situazioni gravi? Esattamente, proprio questo è il punto, perché se non impattata la salute mentale, se non c'è una reazione da parte di tutti gli attori coinvolti, di chi si prende cura, prima che in qualche misura la bolla scoppi. In realtà ovviamente noi adesso ancora vediamo la punta dell'iceberg, però in verità anche le persone non sono in grado di chiedere aiuto, non sanno dove andare e quindi, come dire, questa situazione è già critica e ovviamente noi dobbiamo lavorare per creare una struttura anche preventiva sulla salute mentale. La figura dello psicologo di base è già stata introdotta da alcune regioni, la chiede in Emilia Romagna anche l'ordine degli psicologi, c'è bisogno di un'accelerazione per arrivare, la regione Emilia Romagna si era detta favorevole. Sì, ancora sono tutte buone parole, in qualche modo noi vogliamo stimolare, aumentare il dibattito, accelerare su questo aspetto, perché il rischio è un po' che ci si perda nei processi, come dire, burocratici o nei processi legislativi, che sono ovviamente giusti, però bisogna assolutamente mettere tutte le attenzioni su questo aspetto, non c'è altro da fare. E noi ci speriamo anche a Barcellona, che è una città molto progressista, che a cui, come dire, anche il nostro comune di Bologna fa riferimento, perché è, come dire, è la stessa città che ha assunto un modello di salute psicologica che in qualche modo riesce a intervenire soprattutto sulle situazioni più gravi, sui giovani, per la prevenzione dei suicidi. Purtroppo spesso i giovani vengono lasciati da soli e hanno anche atti autolesivi e quant'altro, quindi sostanzialmente dobbiamo trovare un modo di concertare con tutti gli attori, istituzioni, associazioni, movimenti di base, trovare un modo per agire concretamente questo tema così importante.